era giorni magici, assolutamente unici, dove tu eri il mio sole che non tramontava mai. E tutto era armonico e mai nulla di frenetico, e con te che eri il mio sole non cercavo altri guai. Mi guardavi con calore, mi chiamavi sempre amore, e io sapevo che mi avevi preso il cuore. Mi parlavi di una magia, era nostra, tua e mia, e io ti amavo perché tu eri il mio sole. Erano giorni teneri e noi due eravamo complici, eri calda come il sole, non avevo freddo mai. Erano giorni autentici, anche senza mondi esotici, ed il dolce tuo sapore mi inebriava sempre ormai. Mi parlavi con passione, mi chiamavi amore, e a me batteva forte il cuore. Mi dicevi sono tua, mi chiamavi amore, e a me batteva forte il cuore. Erano giorni magici, assolutamente unici, dove tu eri il mio sole che non tramontava mai. Batteva forte il cuore, mi dicevi sono tua, mi chiamavi amore, e a me batteva forte il cuore. Erano giorni teneri e noi due eravamo complici, e tu eri calda come il sole, non avevo freddo.